storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti che cambiano li saluti, storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave, storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un rigo a una donna che non c'è più. Storie come anelli di fumo in un posto lontano senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più, un giorno in più che se ne va, che se ne va, dimenticato tra i rumori di città, per tutti quelli così come, così noi, come noi. Niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore